puoi fare un po' di soldi. Agricoltura! Vedi questi? Li ho guadagnati vendendo mais. Esce dalla cazzo di terra! Non ci potevo credere! Vedi quello? È fatto di pollo! Lo uccidi? Hai pollo gratis! Lo puoi vendere poi! Oppure non lo uccidi? Te ne cazzo di uova escono dal culo! È incredibile! Questa è lana! Tagliala, vendila, e poi cazzo cresce di nuovo! Non puoi perdere! Perdono. Senta, noi ci siamo persi, no? Lì c'è una quercia, era grande stanotte, ora è piccina. Lui è un mio amico Mario, sta male parecchio. No. Sì, insomma, allora, noi ora siamo a Frittole. Frittole? Ora, lasciamo perdere questo Frittole, non lo voglio sentire. Da questa città di Frittole, andando via da Frittole, uscendo, si arriva naturalmente a un'altra città che si chiama... La stazione. Oh, aspetta, Saverio, no, scusi, perdono. Volevamo sapere una cosa, non si preoccupi. Cioè, noi qua siamo a Frittole, va bene, ma che siamo veramente nell'anno 1400? No? Quasi 1500. Ma allora io vedo... Oh! Quanto dura questo scherzo? Con una persona che sta male come Mario, gli ho detto prima, e continua a fare questo scherzo. Non sarebbe neanche per me, a me che mi interessa. Io lo scherzo lo leggo, è il Mario che sta male, non legge lo scherzo. Andare in giro vestito così, imbecille. Benvenuti alla stazione, la nuova regia di Radio Wombat. Attenzione, il progresso uccide, non oltrepassare la linea gialla. Ed eccoci tornate. Evviva, viva, viva! E come sempre regia tutta al femminile, perché abbiamo noi anche... Eccomi la dama, ci sono... Buon pomeriggio a tutte e tutti, siamo su Radio Contado. E questa sarà, come potrete ascoltare, ma non vi vogliamo dire troppo di più, una grandiosa puntata piena e ricca di ricordi. Esatto, come avete potuto sentire dalla bellissima sigla, che è la vecchia sigla storica, un po' rivisitata, quindi ci sarà questo, capito, vecchio e nuovo a confronto. Vecchio e nuovo a confronto, tant'è che vedremo come va. Le cose che non cambiano mai sono Radio Contado, ci puoi ascoltare su... www.radiowombat.net C'è un sacco di caldo oggi, ma in regia prima giornata di vero solleone, e quindi diciamo è la botta di laga, quindi al di là dei nostri problemi tecnici ascoltate Radio Contado, dove sempre, non vi diremo dove perché adesso non ce lo ricordiamo nemmeno noi, ma insomma sarà una puntata diciamo che riprende i primi format della Radio Contado, quindi vi potrete sentire le vecchie rubriche storiche e anche delle voci storiche, non vi sveleremo di più. Ma prima di passare, diciamo, alla nostra puntata nostalgia, noi abbiamo, diciamo, un pegno da pagare, perché nella scorsa puntata Tommaso, che è venuto a parlarci del tempè, è rimasto molto deluso dal fatto che noi non gli abbiamo chiesto che canzone voleva per la radio. Quindi ci scusiamo ufficialmente con Tommaso e mandiamo subito una canzone scelta da lui. E noi ci sentiamo tra pochissimo per questa puntata nostalgia. Guarda, quando mi fai questi colpi di scena registici e vai. Ma che sarà? Che cosa t'offrirà quest'altra storia, quest'altra novità? L'unico rischio è che sia tutto finto e che sia tutta pubblicità. L'unico rischio è che sia tutto finto e che sia tutta pubblicità. Ma che ne sai se non ci provi mai? Che rischi corri se non vuoi volare? Poi piedi a terra legato alla ragione, e passa presto la voglia di sognare. Ma è quello che vogliono da te, già appena nati ci hanno abituati a non pensare, a darci un'illusione, sempre con la scusa è la ragione. E anche se fosse solo pensione, solo il pretesto per fare una canzone, vale la pena almeno di tentare, se è un'occasione per poter volare. Allora non la sprecare, prova a volare. Attenzione, attenzione, comunicato ufficiale, l'allarme del partito, non lasciatevi suggestionare, quella voce che vi invita a volare è di un maniaco sabotatore. Spegnete la radio adesso, ci avete registratori, presto, presto. Ma la radio va e non si fermerà, ti prenderà per mano, ti insegnerà a volare, visti dall'alto i draghi del potere, ti accorgi che sono draghi di cartone. Solo pensione, solo il pretesto per fare una canzone, vale la pena almeno di tentare, se è un'occasione per poter volare. Allora non la sprecare, prova a volare. Attenzione, attenzione a tutte le persone serie, consapevoli, equilibrate, non lasciatevi suggestionare, abbiamo ben altri progetti per voi. Uomini 2000, saggi civili, perciò prestate attenzione, solo la voce della ragione. Ma la radio va e non si fermerà, la prenderà per mano, insegnerà a volare, visti dall'alto i raghi del potere, ti accorgi che sono draghi di cartone. Ma non li hai, sono di cartone, se resta bene che vuoi capire, con la scusa di schiarirtene ti confonderanno sempre più late, ti manderanno allo sbaraglio, in questa farsa, nel ruolo di comparsa. Ma basta che voli in alto, ma basta che ti alzi un po', e forse scopri che quello che ti faceva paura era soltanto un gioco. E adesso è l'occasione per poter volare. Allora, non la sprecare, prova a volare. Prova, ma che ne sai, se non ci provi mai non puoi sapere se vai o no. La pena di te dai un'occasione per volare. Anche le foche bevono Radio Wombat. E come avete sentito, persino gli spottini abbiamo riesumato. Ma stiamo già chiamando e ora indovinate chi chiameremo. Pronto? Pronto? Ma sì? Con chi stiamo parlando? Con Dino il contadino. No, Dino, ci sei ancora? Come stai? È tanto che non ci sentiamo. Esisto ancora e quindi esistete anche voi. Esistiamo, Dino, sei di nuovo su Radio Wombat, a Radio Contado. Grande, come state? Come state? Noi benissimo. Ma quanto tempo è passato dall'ultima volta? Non lo so, ma tanto tempo. 5 anni? 4 anni? Non lo so. Può darsi. Dino, ma c'è ancora il campo? Certo, vedo. Sì, c'è sempre. Oh, non hai mollato. E si va avanti. No, mollato no. Quello... In questo momento uno si sente sopraffatto dagli eventi perché c'è un sacco di lavoro da fare. Poi quest'anno sta una stagione, come sempre, sono sempre più strane e quindi è piovuto fino a poco tempo fa, non c'è stato modo di fare tante semine, ora appunto siamo tutti indaffarati a seminare, piantare, trapiantare. E fare lavorare il terreno, quindi insomma un momento parecchio. Le bestemmie vanno bene per tutte le stagioni perché è un quattro stagioni perché no, ora diciamo l'elemento che genera più bestemmie in primavera sicuramente sono gli attrezzi, diciamo, che si usano in questo periodo, che come tutti ora comincia, cioè in realtà è già da un mesetto che si è cominciato a tagliare l'erba e quindi c'è il momento fatidico della rimessa in moto del cespugliatore e quello, devo dire, regala grandi perle, sì, perché ovviamente come tutte le volte non parte, non va moto e quindi i moccoli fioccano. Proprio quel motocoltivatore, insomma, è un grande classico. Sì. Infatti, questo è sempre importante perché uno poi è sempre pieno a fare le cose che uno dovrebbe fare, ma tutti gli anni dice no, ma mi impegno, faccio manutenzione, eh? E poi alla fine uno si ritrova sempre all'ultimo che deve usare sti attrezzi e non parta mai. Questo è un grande classico. Ma mi ci ritrovo un po' in queste parole, guarda. ma è una cosa un po' comune a tutti. Ma sei già riuscito a mettere qualcosa nel tuo orto o no? Allora, di cose, sì, un po' fatto semine un po' qualche mese fa, per esempio piselli, queste cose qui, però ancora... diciamo altre cose purtroppo non sono riuscito a metterle, tipo patate e cece purtroppo quest'anno non sono riuscito perché il terreno era sempre stato molto bagnato e ora la stagione insomma è un po' troppo tardi per metterle, quindi purtroppo dopo tanti anni mi è saltato questa cosa e ora le piantine sono pronte, si spera la prossima settimana di ricominciare a trapiantare le zucchine, cucche, cetrioli, melanzane, pomodori, insomma tutte queste cose qui. Io sono talmente indietro e ora in questi giorni sto ancora trapiantando le cipolle, però... Guarda, vabbè, anch'io ero a farlo stamani, quindi... Non sei l'unico! Ma... quest'anno è un po' così, poi appunto è un po' l'inghippo perché ora essendoci quasi, credo oggi ci siano quasi 30 gradi, non so, ma fa un caldo vicco, che appunto vanno comunque annaffiate, ora lunedì dovrebbe mettere pioggia, però insomma, vediamo, per non far sì che domani si ritrovi una piantina secca, forse un'annaffiatina stasera c'è da dargliela. Dai, e quindi soliti problemi da contadino e niente, sempre la solita lotta con gli animali che a differenza dei contadini aumentano mentre i contadini diminuiscono, quindi niente. Ma te tieni duro, Dino, però. No, certo, tenere duro. E questo ci rincuora, cioè a me mancavano un po', perché io mi stavo ascoltando, devi sapere, le prime puntate di Radio Contado e mi sono riappassionata ai tuoi proverbi e ai tuoi modi di dire, cioè mi sto segnando via. Illuminaci, dici qualcosa, un consiglio, un proverbio. Il mantra che va nell'ultimo anno, che questo l'ho preso qui da Silvano, un contadino storico di lì, che è sempre più sconsolato lui per il fatto che nessuno può più lavorare la terra, che lui ha 80 anni, nessuno gli dà la mano, e un giorno mi disse

carico dei Dioni Venere. Disfatto sarai te con il Dionive Pate. E io mi compro un X3. Non dobbiamo chiamarlo Pate, dobbiamo chiamarla Salsa del Conte. Belle giulive con il Pate di Olive. E rieccoci dopo questo bellissimo spot d'autore che ricordo con gioia. Ma adesso che rubrica presenteremo? Ma che rubrica presenteremo? Che cosa c'era? Vediamo chi ci vuole scrivere a Radio Contato che oggi è in Siberia.net o in diretta sul pad andando su www.radioma.net, diretta vado lì, vado.lì, insomma cercate. Trovateci in qualche modo, aiutateci ad aiutarci. Vediamo che lo sa. Interroghiamo la nostra Pamela. Pamela, tu che sappiamo che hai seguito Radio Contato fin dai primordi. Certo, che sono una storica. Che sei una storicissima ascoltatrice che poi diventava una co-conduttrice meravigliosa. Ma che cosa c'era? Che rubriche c'erano all'inizio? Io, rifacendomi all'arcaico idioma, penso fosse un tema latino. Io l'avrei intitolata Minima Ruralia. E non lo so se questa ispirazione mi viene da un al di là radiofonico. Minima Ruralia, la storia, i personaggi, i contesti. Professor Gianni Tamino, che ci ha dato la cortesissima disponibilità di realizzare questa intervista, professore dell'Università di Padova, biologo, ancora prima che divulgatore, europarlamentare dei Verdi e da sempre in prima linea su questioni ambientali. Quindi grazie mille Gianni di essere ai nostri microfoni. Grazie a voi della richiesta di intervento, che è sempre utile chiarire questi problemi. Esattamente, perché di problemi e di questioni da chiarire ce ne sono parecchie. Stiamo parlando oggi del macro tema degli OGM, degli organismi geneticamente modificati. Così si chiamavano un tempo, professor Tamino, oggi si chiamano TEA. In realtà sono sempre più o meno la stessa cosa. I termini adottati sia in passato che oggi sono poco significativi, nel senso che già OGM non era un'espressione molto corretta, perché organismo geneticamente modificato non vuol dire nulla, modificato come, da chi, eccetera. Il termine corretto sono organismi modificati con tecniche di ingegneria genetica, e questo vale sia per i vecchi che per i nuovi OGM. Le differenze sono essenzialmente su tecniche particolari, ma la sostanza del modo di approcciare il problema è più o meno lo stesso. Immagino anche che negli ultimi 20 anni le tecniche per l'appunto si siano molto evolute. Noi abbiamo avuto modo di conoscere la tua figura anche attraverso le tue prime pubblicazioni. Si parla del 2001, si parla di un libro, Ladri di Geni, che è stato, voglio dire, un crocevia, dalle manipolazioni genetiche ai brevetti sul vivente. E di nuovo i temi sono gli stessi dopo 20 anni, e la domanda è, cioè, le domande sono parecchie, a partire dal mondo scientifico, accademico, arrivare a quello della divulgazione, però è cambiato tutto anche nel pubblico oggi. Sì, diciamo che pur essendo sostanzialmente tecniche seppur innovative con la stessa logica, spesso i termini servono a confondere le idee. organismi geneticamente modificati inizialmente era stato propagandato come la soluzione di tutti i problemi, coltivare in zone aride, coltivare nel freddo, coltivare nel caldo, eccetera, tutte cose che non sono state per niente rispettate, perché il vecchio OGM, il termine OGM si applica a qualunque organismo, i primi organismi geneticamente modificati riguardavano batteri e iniziano negli anni 70. Nelle piante incominciamo nella seconda, come commercializzazione nella seconda metà degli anni 90 del secolo scorso, e in questi 30 anni praticamente non ci sono state significative evoluzioni se non recentemente con quelli che vengono chiamati nuovi OGM. Ma i vecchi OGM essenzialmente sono un fallimento, perché hanno ottenuto solo 4-5 specie modificate in modo commercialmente interessante, con circa due tipi di geni inseriti: un gene che rende tollerante la pianta all'erbicida prodotto dalla stessa azienda che produce l'OGM, e l'altro gene è quello che rende la pianta resistente a degli insetti inserendo una tossina di un batterio che viene usato anche in agricoltura biologica come batteri in quanto tale. Invece qui si inserisce il gene che produce la tossina di questo batterio. Ma qual è il problema? Il problema è che si ritiene, con i vecchi come con i nuovi OGM, che inserendo o togliendo delle parti del patrimonio genetico si possa determinare caratteristiche totalmente innovative. Questo contrasta con l'idea che oggi abbiamo del funzionamento dei geni, e cioè che agiscono come una rete sia di geni, sia di geni e segnali che vengono dall'interno dell'organismo e dall'esterno dell'organismo. In pratica, in un organismo come una pianta, un animale o l'uomo, tutte le cellule hanno gli stessi geni, ma la maggior parte dei geni sono silenti e vengono attivati di volta in volta quando, in base all'età, in base al periodo, in base all'ambiente, sono necessari che si sviluppino determinate proteine prodotte da determinati geni, i quali, se non hanno questa attivazione, non producono nulla. È proprio il problema dell'attivazione: inserendo geni in maniera non coordinata con questa complessità, si sono inseriti con, per esempio, degli attivatori che sono virali, che rendono questi geni sempre comunque funzionanti in maniera del tutto scollegata con la regolazione del funzionamento degli altri geni. Questo determina delle alterazioni profonde proprio nel funzionamento complessivo di quei geni e degli altri geni. Questo ha creato problemi al punto che nel 2002, quindi ancora in epoca abbastanza iniziale di questi tipi di organismi, D'Ulbecco, premio Nobel, diceva: guardate che inserendo un gene estraneo un gran numero di altri geni viene alterato nella sua funzione, e lo si vede con metodi di genetica molecolare, ma non sappiamo né quando né come verranno alterati e quali effetti avranno queste alterazioni. Per cui, per esempio, applicando il principio di precauzione, che è obbligatorio perché fa parte del Trattato dell'Unione Europea, per tutti i paesi dell'Unione Europea si dovrebbe avere certezze che non ci siano danni, proprio applicando il principio di precauzione, ma il principio di precauzione non è previsto nella normativa, per esempio, degli Stati Uniti e d'America. Questo ha creato una grossa differenza tra le due parti dell'oceano. E l'altra differenza è la logica dei brevetti, cioè il vero obiettivo è che le multinazionali in questo modo possono brevettare organismi viventi in contrasto col principio che era alla base dei brevetti stessi, che si possono brevettare solo invenzioni e non scoperte biologiche. E che cos'è allora l'epigenetica, professor Tamino? Ecco, l'epigenetica è proprio quel studio di come si manifestano le espressioni dei geni, come i geni si esprimono. Per esprimersi, i geni possono essere attivati da segnali, devono essere attivati da segnali, ma nel corso dello sviluppo embrionale e nel corso di una pianta, della sua storia, intere zone possono essere bloccate perché i cromosomi sono legati a delle proteine chiamate istoni e in certe zone questa associazione proteina DNA blocca completamente l'utilizzo di quelle parti. In altre zone ci possono essere delle aperture e altri sistemi ancora di regolazione modificano dopo la produzione del DNA, modificano alcune parti del DNA con delle metilazioni. Tutto questo serve a rendere in maniera regolata e in base alle esigenze dell'organismo, in questo caso la pianta, il funzionamento di questi geni. Vengono attivati in modo da produrre la proteina corrispondente solo se e quando serve. Gli OGM invece hanno dei geni inseriti al di fuori di questo sistema di regolazione. Esattamente, meccanicamente. Ma a questo certo, punto è una visione riduzionista, come spesso diciamo, nel senso che si pensa che si tratti di un fenomeno lineare fisico quando siamo in un sistema complesso. I sistemi complessi sono quei sistemi per cui le proprietà sono determinate, le proprietà dell'insieme, in questo caso dell'organismo, non tanto dalla somma delle proprietà delle parti, quanto dalle relazioni tra le parti. Ed è questa continua interazione tra relazioni delle parti che determina la nuova e continua evoluzione dell'individuo. Intanto grazie fin qua del contributo. Io provo sempre a stuzzicare un po' il professore, nel senso l'uomo di scienza, e portarlo su temi, non dico politici, ma quantomeno sempre etici e su questo tema. E infatti tutte le domande che mi sorgono a questo punto dell'intervista muovono in questa direzione. Cioè, per esempio, perché l'epigenetica è tuttora ignorata dal mondo scientifico? Beh, non è ignorata perché se uno va a vedere la quantità di pubblicazioni che ci sono nel mondo della biologia su questo argomento sono notevolissimi. Diciamo che c'è un'inerzia culturale per cui molti preferiscono ragionare in termini lineari, in termini appunto riduzionisti, cioè è meglio studiare una proprietà alla volta e pensare che la somma di queste proprietà mi permette di capire l'insieme. È più facile, e quello è il metodo della scienza di un tempo, ma oggi la teoria della complessità ha spazzato via tutto questo, ma molte persone che si avvicinano alla scienza, che sono uomini di scienza, all'università non hanno mai studiato la teoria della complessità. È evidente. Per esempio, mi piacerebbe fare un salto indietro nella nostra intervista. All'inizio, più o meno, hai detto che circa 30 anni di sperimentazioni di fatto non hanno prodotto alcunché. Esattamente 30 anni, diciamo, il termine temporale. Sono state innovazioni significative, questo intendevo dire. Sì, si intende. Parliamo un secondo di un altro contributo che hai avuto modo di darci, ovvero il tuo parere scritto che è stato poi presentato alla commissione del Comune di Firenze in merito a una richiesta particolare che la nostra comunità aveva mosso, ovvero quella di dichiarare Firenze un comune libero da OGM vecchi e nuovi. E i nostri relatori presenti in commissione hanno dovuto confrontarsi con gli altri relatori di ovviamente opposta opinione, fra cui ci piacerebbe ricordare il vicepresidente dell'Accademia dei Georgofili, che per l'appunto ha detto che in 30 anni non sono stati riscontrati effetti negativi né per l'ambiente né per la salute sulle sperimentazioni di OGM. Cosa è successo in questi 30 anni di coltivazione di OGM? Alle persone umane non risulta niente. All'ambiente, io vorrei parlare dell'ambiente. Io sono stato un verde militante dell'ambiente, potrei dire molte cose. Diciamo che mi sentii un po' a disagio quando i verdi cavalcarono questa forte opposizione agli OGM. Ecco. Ma io vengo da quella parte lì. Dopo 30 anni non abbiamo visto problemi e ancora si continua. Anche in merito a questo posizionamento la commissione ha dato parere negativo e quindi Comune di Firenze rimarrà libero di poter sperimentare oggi e coltivare un domani OGM vecchi e nuovi. Shout, shout. ha fatto queste affermazioni non conosce la letteratura scientifica, perché ci sono migliaia di lavori scientifici analizzati anche in meta-analisi che mettono in luce come per esempio nelle popolazioni dove si usano gli OGM, sia gli agricoltori ma anche le popolazioni vicine abbiano tutta una serie di problemi dovuti a che cosa? Il fatto che per esempio gli OGM tolleranti all'erbicida fanno sì che si usi più erbicida di prima e le patologie collegate all'erbicida sono maggiormente presenti dove si usano questi OGM tolleranti. Questo è un dato ben noto, ma c'è un altro effetto, l'effetto paradosso, e cioè l'aver usato degli OGM tolleranti all'erbicida fa sì che le piante infestanti diventino sempre più resistenti a loro volta all'erbicida, per cui insieme all'erbicida che per cui la pianta è stata resa tollerante bisogna usare altri erbicidi perché quello non è più sufficiente. Nel 2014 la rivista Nature pubblicava con un titolo, leggo dall'inglese, un problema crescente, e diceva in molte zone del paese dove si coltivano gli OGM vi è un crescente incremento di piante tolleranti resistenti quindi all'erbicida che si usa, ma non basta. L'altro tipo di OGM, quello che spiegavo che invece è resistente all'insetto, che usa la tossina del Bacillus thuringiensis, quindi una tossina che colpisce la larva e va a infestare per esempio il mais, in questo caso per fenomeni proprio evolutivi normali che si studiano in biologia quasi tutti gli insetti vengono colpiti dalla tossina, ma una parte naturalmente di questi insetti è in grado di resistere alla tossina proprio per la biodiversità che c'è all'interno della popolazione. Siccome muoiono tutti gli insetti fuorché quelli che sono naturalmente resistenti, le generazioni successive saranno formate solo da insetti resistenti che si sono accoppiati fra loro e nel tempo questo tipo di tolleranza viene meno. Proprio recentemente, qualche mese fa, con una distanza di 25 anni da quando scrivevamo queste cose, una rivista ha pubblicato proprio che quello che si riteneva essere una cosa, come si può dire, di studio è diventato invece una cosa nota e questo è importante perché nella rivista, in questo caso se non ricordo male Science, si dice negli Stati Uniti, nella zona del Corn Belt dove si produce la maggior parte del mais, ormai gli OGM basati sulla tecnica del Bacillus thuringiensis, tossina inserita nel mais, non funzionano perché ha accelerato il processo evolutivo dei parassiti, cosa che scrivevamo molti di noi 25 anni fa. Quindi non è vero che non ci sono danni alla salute, danni all'ambiente e nessun vantaggio, perché uno dei vantaggi che si diceva era quello che avrebbe risolto la fame nel mondo, l'ha ricordato che uno dei paesi che produce più OGM, in particolare la soia OGM, è l'Argentina, e da quando coltivano soia OGM hanno avuto due crisi economiche e in queste due crisi economiche i bambini morivano mentre il paese esportava soia OGM. Perché la fame nel mondo non dipende dal cibo prodotto, ma dall'accesso al cibo da parte della gente. E qui sfondiamo una porta aperta. Infatti mi concedi la possibilità di tornare, tra virgolette, a casa nostra e andando verso il finale dell'intervista provare ad atterrare un po' queste opinioni, cioè a materializzarle nella vita di tutti i giorni. Insomma, noi come collettivo contadino notiamo una gran bella differenza nell'opinione pubblica, tornando, ripeto, alle piazze, al sentito dire, alle divulgazioni mass mediatiche o meno, perché per esempio sia la grande distribuzione organizzata sia i sindacati di categoria hanno cambiato posizionamento. Certo, soprattutto la Coldiretti. Soprattutto la Coldiretti che per l'appunto è stata quella che aveva promosso una struttura di cui facevo parte anch'io di scienziati contro gli OGM. Adesso si è fatta paladina dell'inserimento nell'agricoltura anche biologica dei nuovi OGM. Infatti, senza parlare dell'altro esempio, quello della Coop, a proposito di grande distribuzione, sono che spesso collegati. Esattamente, anche questo è stato oggetto di in passato presidi, divulgazioni, volantinaggi per provare a sensibilizzare un minimo l'utenza, ma ripeto, noi non vediamo consapevolezza crescente, non, come se queste tematiche non bucassero lo schermo, se posso usare un'espressione anni 90. Sì, forse c'è stata una suefazione e anche la logica di cambiare nome, tecnologia d'evoluzione assistita, fa confondere le idee per cui non capisce di cosa si tratta. In realtà queste tecnologie sono simili a quelle vecchie, perché una è la cisgenesi, che è come la transgenesi, solo usando geni di piante compatibili tra di loro, ma la tecnologia è esattamente la stessa. Il problema è proprio quello di inserire geni estranei con metodi di regolazione diversi da quelli naturali, e lo stesso vale anche per il metodo che è sicuramente più avanzato, che è il genome editing, cioè l'editing genomico, che consiste nel avere la possibilità di inserire in maniera ben più precisa di prima nuove porzioni di DNA, ma alla fine anche in questo caso le tecniche di ingegneria genetica sono le stesse, e vale quello che diceva Dulbecco, cioè inserendo qualcosa di estraneo il funzionamento di molti altri geni viene alterato senza sapere, ripeto, né quando né come. Davvero, grazie mille fin qua. E tornando a un ultimo commento a proposito della inconsapevolezza nell'opinione pubblica, un commento personale riguardo quest'ultima notizia: nemmeno quando c'è stato il sabotaggio, la distruzione del campo, le barbatelle di vigna sperimentale in Trentino, in Veneto, perdonami, è stato passato un minimo la notizia. Quindi c'è, sì, veramente l'Università di Verona che è un po' all'avanguardia in queste sperimentazioni che sono state autorizzate in Italia, sperimentazioni che non vuol dire possibilità di vendita, perché la normativa è ancora quella vecchia, è in fase di modifica, ma attualmente non si può commercializzare un prodotto frutto di ingegneria genetica se non rispettando le regole attuali. Quindi si può solo fare sperimentazione, è quello che si sta facendo anche in Italia, ma il rischio per esempio è la disseminazione attraverso il polline di caratteristiche che vanno nell'ambiente, vanno su altre colture, ed è difficilissimo poi tenere sotto controllo questa situazione. Ecco perché se si fa una sperimentazione dovrebbe farla in ambiente chiuso, isolato, e non in campo aperto come invece è stato autorizzato. Si intende. A questo punto non posso che fare una domanda scomoda forse, ovvero quali sono le possibili alternative? Beh, le possibilità alternative sono molte, nel senso che la cosa migliore, ricordiamo che se passerà la deregolamentazione che viene proposta in questo momento a livello europeo, uno non avrà nessuna garanzia, al contrario di oggi, che per avere si può vendere un OGM prodotto magari negli Stati Uniti, ma bisogna scrivere nell'etichetta contiene componenti frutto di agricoltura con ingegneria genetica, e quindi ci sono degli OGM, bisogna scriverlo nell'etichetta. Con la nuova deregolamentazione questo non sarebbe più obbligatorio per una quota almeno dei nuovi OGM. L'unico modo per ovviare a questo per esempio è comprare prodotti biologici, perché anche se tentano di inserirli perfino nell'agricoltura biologica, tutti coloro che fanno agricoltura biologica non hanno nessuna intenzione di accettare nuovi OGM nella loro agricoltura. Quindi quando c'è scritto frutto di agricoltura biologica, gli OGM non devono esserci, e questa è una garanzia. Però dal punto di vista tecnologico non vuol dire che chi fa agricoltura innovativa, chi fa agricoltura biologica non debba usare nuove tecnologie. Per esempio, per avere una velocizzazione nelle selezioni di nuove varietà in grado di resistere per i cambiamenti climatici, esiste la tecnica della selezione assistita da marcatori, cioè noi possiamo individuare dei marcatori molecolari che permettono di individuare, facendo un'analisi, quali piante hanno quelle caratteristiche che non si vedono immediatamente, e fare delle selezioni e degli accoppiamenti tra piante che abbiano caratteristiche innovative. C'è poi anche la possibilità di fondere cellule di pianti simili, come è stato fatto per il riso, per esempio in Africa, hanno fuso cellule contenenti caratteristiche del riso africano, che è più facile coltivare in Africa, con le proprietà alimentari del riso asiatico, e hanno ottenuto un ibrido che non è assolutamente OGM, perché è del tutto naturale, e questo riso chiamato Nerica, cioè New Rice for Africa, si coltiva da parte anche di agricoltori biologici. L'ho assaggiato, l'ho anche comperato direttamente quando ero in Senegal da produttori locali. Quindi le tecniche innovative ci sono, il problema è di non usare tecniche che pensano di risolvere il problema attraverso inserimento di geni che non si regolano più nel contesto più complesso di quello che è l'attività di un organismo che deve interagire col proprio ambiente. Noi ringraziamo molto il professore Gianni Tammino per la sua cortesia e la disponibilità. Vorremmo salutare, appunto, dando alcuni ultimi riferimenti, non solo il suo articolo apparso su Quaderni della Decrescita del 2024, piuttosto che il suo libro ancora prima, quell'altro citato del 2001. Se te avessi da proporci alcuni riferimenti testuali piuttosto che documentaristici, che magari chi ci ascolta per approfondire, intendo. Ma credo che intanto l'articolo che ho scritto, che è di libero accesso gratuito in internet sui Quaderni della Decrescita, è completo, manca soltanto l'ultima parte, cioè lo stato attuale al Parlamento europeo e alla Commissione europea, ma di questo avremo notizie nei prossimi mesi. Invito tutti comunque a seguire i comunicati che vengono fatti dalle associazioni che si occupano di semi tradizionali, di agricoltura biologica, di difesa della biodiversità agricola, perché in questi comunicati viene richiesto di muoversi, mobilitarsi per far sapere ai deputati europei la propria posizione, perché il Parlamento europeo non accetti la deregolamentazione, che vorrebbe dire perdita di conoscenza da parte del cittadino, del consumatore, di quelli che sono le caratteristiche, quindi verrebbe meno il proprio diritto di scelta. Infine, a proposito di mobilitazione, ci salutiamo lanciando nuovamente la piazza che il 14 giugno è stata promossa a Parma come corteo nazionale contro l'esperimentazione dei nuovi OGM e la deregolamentazione, e che dire, ci vediamo lì? Cerchiamo di trovarci tutti lì e di far sentire la voce prima che decidano nel cosiddetto trilogo, che è costituito dal Parlamento europeo, dal Consiglio europeo e dalla Commissione europea. Grazie mille professor Gianni Tammino. Grazie a voi. No, cazzo Mulo, non ha detto agroecologia. No, non la dobbiamo imboccare nella domanda, cioè riregistriamo la domanda e la imbocchiamo, la parola agroecologia. E quindi aspetta, come? No, va bene. Grazie per il contributo. Grazie intanto per il contributo. E poi, a proposito di alternative, oltre a praticare ogni giorno, dai, se ero quasi... Agroecologia. No, aspetta, dobbiamo smettere di ridere. Sì, qual è la frase giusta? Ma sta registrando ancora, ma sei veramente spietato. Mi dai la battuta, per favore? Ho perso il focus. La domanda era: questione etica, bla bla bla. Chiediamo anche quali che sono le possibili alternative, oltre a praticare ogni giorno l'agroecologia. Puoi inserire stoppa, buona! Puoi inserire la parola pinguino e agroecologia in una frase che abbia senso? Sì, chiediamo dunque, a proposito della questione etica, cioè i cambiamenti climatici, i disagi sono tanti, gli scioglimenti dei ghiacciai, anche il pinguino soffre, perché tutti soffrono i cambiamenti climatici, e quindi chiediamo al professor Tamino, appunto, oltre a praticare l'agroecologia, quali possono essere le possibili alternative per noi e per i pinguini. Ciao, sono Karl Marx e ascolto anch'io Radio Contado. Eccoci di nuovo in onda. Ma abbiamo qualcuno o noi al telefono che ci ha chiesto questa bellissima canzone? Soprattutto il finale, il soldo. Quella, la parte più bella della canzone è quella. Ciao Grevana. Salve Camicia, come stai? Ciao, bene, bene, bene, bene. Sono lontano dall'Italia in questo momento. Ma te sei sempre lontano dall'Italia, mi sembra. Sono sempre, sì, sono lontano dall'Italia, sono in Madrid. E voglio salutare però anche la dama, che so che è lì. Camicia, quanto mi manchi. Ciao, dama, che spettacolo, anche te, anche voi. L'unica che non ci ha lasciato. Esatto, grandissima. No, e poi questa Grevana, che adesso siete alla console, Greva. No, la console c'è, abbiamo Pamela. Camicia, ma sei in un posto dove c'è del gran vento? Un pochino di vento, sì, perché queste strade intorno a Plaza Dos de Mayo sono... Ora sentite meglio? Ora sì. Meglio, allora sto così, tipo dentro un tombino. Bravo. Non arriva il vento. No, e qui c'è festa, primo di maggio, poi c'è il 2 di maggio, che la indipendenza spagnola ha cacciato i francesi, tipo nei primi dell'Ottocento, quindi c'è festa, ma soprattutto ero venuto perché dovete sapere che il mio nuovo lavoro, sono un cacciatore di apocalissi, quindi io vado dove c'è odore di apocalisse, quindi se avete letto i giornali o avete ascoltato Radio Wombat, sapete sì. Che il lunedì c'è stato un blackout di 10 ore, quindi non ho potuto resistere, ho preso subito un aereo. Sperando di ma sarei stato come a te per arrivare qua. Guarda, ho iniziato a sospettare di essere tipo Jessica Fletcher, sì, perché l'ultima volta sarà stata tipo la nevicata del secolo. Ci vedo come signora in giallo, eh? Sì. C'era proprio la maglietta gialla, tra l'altro. Come tra Greta Thunberg e la signora in giallo. Esatto. Sicuramente, ma senti una cosa, Misha, ti interrompo subito. Non ce l'ho più, ci immaginiamo. Ma però, per chi non si ricorda di te, noi abbiamo preparato un attimo, prima che tu inizi qualsiasi cosa, una tua presentazioncina, te la faccio sentire al volo, per farti inquadrare subito dal pubblico. Voglio la poltrona io! Le poltrone. Non me ne frega niente del capo di patate! Io voglio la poltrona! Come qualunque movimento contadino, dal me da quello del Messico e Pancho Villa, alla fine il risultato è sempre stato questo. Io voglio stare a Città del Messico dopo aver fatto la rivoluzione e non fare più un cazzo. Oh. E diciamo, facciamo outing. Intento politico, è chiaro. Io voglio che nascano da sole le uve. Basta lavorare. Nasceranno sempre. Ti ricordi? Ti ci riconosci? Un profetico quella cosa, perché non sono arrivato in Città del Messico, ma sono a Madrid, è lungo strada. Vedi? Quindi sì, poi sì, la poltrona in realtà non l'ho ancora trovata, però il letto sì. Infatti adesso la camicia da notte, se devo fare la battutona. Ecco, potete chiamarmi così da ora, se volete. Bene. Ma senti una cosa, ma che stai facendo nella tua vita adesso, camicia? Visto che non ti vediamo mai. Allora, a parte appunto cercare apocalissi di qua e di là, mi occupo di acqua, nel senso che con Acquifera, che è una piccola associazione, piccola ma incisiva, tipo i virus, quelli cattivi, ma insomma ormai da quando è, da pre-pandemia, diciamo, se vogliamo dividere la nostra storia contemporanea in pre-pandemia e post-pandemia, e quindi niente, ci occupiamo di tutela dell'acqua in vari paesi del mondo, con i contadini quechua in Bolivia, con i pocotti in Kenya e con i senegalesi coltivatori di varie cose, e quindi niente, mi sono buttato sull'acqua e infatti sta per diluviare pure qua a Madrid, cosa che non è difficile vederla, e quindi niente, questo mi occupo fondamentalmente. Ma invece ci pensi mai a Radio Contado? Tanto, spesso sempre, mi piace questo momento di nostalgico, e tra l'altro vedo che non sono cambiate un granché le cose, nel senso dici che la serietà, la scelta musicale è sempre top, massima, superiore veramente. Poi vabbè, Grebana e Dama sono veramente le vere alter ego veramente contadine di mulo e camicia, cioè Grebana sta a mulo come Dama sta a camicia, praticamente in un'equazione matematica perfetta. La Dama si sta offendendo, te lo dico. Sono un po' permalosa, lo sai, camicia, però come vi ho sostituito bene a te al mulo. No, in realtà sei l'unica che rimane, cioè non è che ci hai sostituito, hai mantenuto alto il tutto, perché siamo noi che siamo spariti. E insomma, tutto molto bello, il livello di cazzate è sempre veramente superiore, e Minima Ruralia ha sempre quella sobrietà che aveva nelle puntate 10 e 15, quindi... Vero, e anche quella sciuttezza, quella video, è durata solo è così, 35 minuti. Il mulo va determinato, dritto, lentamente sulla sua mulattiera e non lo fermi mai, capito? Senti una cosa, abbiamo già qui con noi gli ospiti per la tua bellissima rubrica di tra po', ma prima, a proposito appunto di questa, come si dice, selezione musicale top, abbiamo per te una canzone, perché te ne hai scelta una, ma adesso noi te ne dedichiamo un'altra che ti ascolterai almeno in parte. Amorevoli. Thank you. si sono rovinati, non hai abilità. Questa nazione brutta ti fa sentire asciutta e senza volontà. E gioca a fare Dio manipolando il tuo DNA. Così se vuoi cambiare invece resti uguale per l'eternità. Ma non c'è niente che sia Riconosci questa voce sua dente? Ma certo, sto piangendo, guarda. Lo so che stai piangendo, infatti ho un'altra piccola chicca per te da farti sentire. Vabbè, no. Perché che capito, è un po' un revival. Quindi adesso ti senti anche questa. Siamo qui oggi con Manuel Agnelli, che è il cantante di After Hours, e volevamo chiedere un commento sulla prima canzone di After Hours in radio, su Radio Contado. Ma è stata una giornata molto emozionante per le testimonianze, ma anche perché abbiamo visto tutte insieme un sacco di persone che hanno preso delle posizioni molto forti, molto rischiose nella loro vita. Ci hanno fatto sentire veramente piccoli piccoli in realtà, perché appunto il coraggio e la determinazione, la lucidità che hanno avuto è quella che vorremmo avere tutti, che dovremmo avere tutti. E grazie del contributo, ma ciò non di meno ci sono stati una marea di insulti, specialmente dei delatori interni come il giovane Camicia, purtroppo tocca fare i nomi, che hanno detto che la canzone faceva schifo. Tu eri venuto qui per dare un messaggio, però l'educazione si dà con l'esempio, non dicendo agli altri quello che dovrebbero fare o come dovrebbero essere. Però Manuel, non ho finito. Ho trovato un'arroganza che solo perché hai 19 anni mi sembra abbastanza accettabile, perché in realtà appunto dovresti fare proposte invece che criticare. Ricordati che una cosa che si impara è che per quanto sia alto il trono è sempre sul tuo culo che sei seduto, eh? Questo devi ricordarlo. Perché la tua supposta superiorità rischia di fare la fine di tutte le supposte, alla fine. Te la ricordavi questa? non così nel dettaglio. Ho preparato delle sorprese anche per te, cioè. No, ma bellissimo, veramente stupendo, ma penso che abbia vinto questa grande sfida, l'ha vinta il muro alla fine, perché Manuel Agnelli, a forza di infamarlo, vedo, l'ho aiutato ad arrivare a fare la giuria di X Factor, vero? Di X Factor per vari anni, quindi mi deve solo ringraziare, mi deve baciare le mani Manuel. Vediamo se farà un'altra intervista su di te. Gli rendo la supposta, io. Senti, ma ci abbiamo già qui i nostri ospiti e non vedono l'ora di partecipare al tuo AgriQuiz, però volevano un attimo e gli rispiegassi un secondo le regole, come funziona, perché non ne sanno nulla loro, poverini, li abbiamo buttati dentro in pasto a te e a noi. Allora, ciao a tutte le presenti in regia. Allora, funziona così, praticamente ci sono tre regole, dove la prima è sempre la solita, cioè che non ci sono regole, ma poi io vi farò delle domande su orticoltura. E sono precisamente 5 domande e vediamo chi risponde, cioè io sarò l'unica giuria poi in realtà, non sapendo le risposte, ma le deciderò sul momento qual è la giusta delle due. Ecco, questo è in sintesi completa. mi sembra ottimo. Cos'è l'orticoltura? Esatto, questa sarà la prima domanda. Senti, come ma ci si prenota, soprattutto perché l'orticoltura? No, diceva, come ci si prenota per rispondere? Devono dire bip, che devono fare? No, devono scegliere due nomi di due ortaggi che amano particolarmente pronunciare. E quello varrà come loro risposta. Ok. Allora, però ora dobbiamo mandare la sigla prima, perché cioè la sigla non può mancare. AgriQuiz, e precisamos de um separador humano. António Raminhos. La siglona preferita del mulo. alla puntata 18, la stessa puntata in cui si disse che se si mandava la musica irlandese potevamo mandare anche Jasper Hour. E questo è il Ladri Quiz. La siglona preferita del mulo. Ecco la stessa cosa. Ed eccoci on air con l'Agri Quiz, con questo bellissimo sottofondo irlandese che continuerà all'infinito. No, perché l'ho fatto a merda giusto per mandare il primo minuto e 10 secondi. Nei prossimi 3 minuti sono a colpi di carote e sedani le due squadre lì presenti. Io non so se mi sento, se sono on air. Sì, sei on air. Parlando da solo, perfetto. Allora, 4 domande più una apertissima, quindi diciamo 4 meno chiuse e una aperta. E intanto voglio capire, vediamo quali sono, cosa avete scelto per i vostri beep. Dove cioè, devo dire un beep? No, devi trovare due ortaggi che ti piace pronunciare. Carota. Zucca. Beh, l'altra squadra, zucca, perfetto. Cioè, una zucca e un carota. Allora, sì. Vediamo perché... questa è una domanda interessante, perché in realtà uno potrebbe dibatterne tanto, ma io voglio sapere molto velocemente, proprio perché adesso sono un cabaio. Pronti? Vai. Allora, qual è l'ortaggio che dà più soddisfazioni con meno fatica? Andiamo. La patata. Il ravanello. Zucca. Il ravanello. bravo. Zucca ha risposto. Il ravanello. L'altro dice la patata. Argomentate per favore, perché qui... i giudici devono valutare se è una risposta a caso o se c'ha le sue ragioni, è stata espressa. Allora, patata, vai, zucca. C'hai, ne metti giù un botto, non sono mai abbastanza, si arrangia abbastanza con l'acqua, a varie altezze, altitudini. Vabbè, ho capito, c'ha la dorifora, c'ha la pero, no, ho capito, se si guarda quelle robe lì non si finisce più, ha vinto lui sicuramente. Però boh, a me sembrava, dici, sembrava sempre comoda la patata, boh. Rapporto 1-4, 1-5, sempre buono. È vero, c'era, dai, molti saranno d'accordo. Ravanello. Io dico il ravanello. Patata contro il ravanello, è casino, ragazzi. Il ravanello è più veloce, mette concime, poca acqua. Sì, ah. È più veloce, almeno. Quindi tu parli di soddisfazione in termini di che ne escono, però poi sulla tavola il ravanello, come cazzo, te lo mangi sempre in un modo? No, o sbaglio? In campo, appunto. Ah, che è in campo, perfetto. Va bene, allora comunque io do un voto alla patata. Quindi per ora zucca 1. Non avevamo dubbi. No, perché? Allora, seconda domanda, attenzione, qua si fa ancora più complessa. Qual è l'ortaggio che ha bisogno di meno acqua e quello che ha bisogno di più acqua? Vai! Vai. Prenotatevi. Zucca, meno acqua, zucca, vai. Pomodoro, più acqua, zucca. Allora. Segna. Ah sì, eh? Sei d'accordo, Grebana? Questo bisogna dell'aiuto della giuria. Non lo so, perché sul meno acqua forse ne possiamo trovare altri. Su tanta acqua alla zucca sono d'accordo. Se la gioca c'è trio. Carota sono d'accordo. Carota sono d'accordo. Ma solo annuali dobbiamo parlare noi? Solo annuali? Cioè niente di... cioè orticoltura annuale, cioè seminativa, cioè non... unicamente, per capire. Sì, no? Sì, direi di sì. Ah, boh, no, eliminiamo i seminativi. Eliminiamo i seminativi. Lui fa l'intellettuale, secondo me perde un punto, A priori, vabbè. No, ma era già, è ancora zero carota, non ci va a numeri negativi, mettiamo così cattive. Ah, c'è quella della patata, sì. allora c'è uno, allora, scusami. Carota 1 e zucca 0? Per ora sì, per ora vediamo, ci deve rispondere carota, cioè dici pure, scusa. Ma effettivamente ci sto pensando, sai che non lo so, perché mi vengono in mente un botto, cioè è difficile. Cioè, se uno guarda l'irrigazione, bip, sono fuori. Fuori, niente. Pamela segna un punto a zucca. Vai. Se poi se non si fa nessun favoritismo, chi c'è lì? Trentino versus... versus Toscana, quali sono le regioni? Sì, versus Dicomano. Sì, ma noi piantiamo solo capussi, cioè non abbiamo altra cultura, solo quelli. È vero, capisco. Allora, attenzione, attenzione, perché qui ora si fa una cosa, secondo me un tema in cui Trentino è molto ferrato. Allora, visto che parlo di acqua, l'ho fatto un po' monotematico, nel senso che è l'unica cosa di cui so qualcosa. Allora, quanta acqua ci vuole a produrre una mela Fuji in Trentino? Attenzione, domanda risposta chiusa, da 0 a 30 litri, da 30 a 60 litri o più di 60 litri? Attenzione, una mela Fuji di marca in Trentino. Si è prenotato di comano, Di 60. Però sentiamo la risposta dell'avversario. Esatto. Io non lo so, in quantità del lago di Santa Giustina, devi mettere tipo un centesimo di lago di Santa Giustina per ogni mela, tipo una roba così. Quindi non riesco a comparare in litri, da noi non abbiamo questa unità di misura. Ah, ok, c'è cioè una porzione di lago è la vostra misura per l'acqua, sì, il volume è importante questa cosa. Ma sai che potrebbe rivoluzionare? Se uno pensasse all'acqua in porzione di lago, probabilmente ne sprecherebbe meno. Guarda, mi hai dato un'illuminazione. Comunque posso dare la risposta io, Greba, no? Mi dai il permesso? Certo, dacci la risposta. Ha vinto più di 60, perché sono 70 litri almeno secondo l'impronta idrica, il report dell'impronta idrica della FAO di qualche anno fa. Niente, quindi Di Romano vince anche sulla domanda, diciamo, sul Trentino, niente cioè, proprio fallimentare. Fallimentare. Abbiamo provato a facilitarlo ma non ha funzionato. Tra un po' si arriverà sui detti toscani dell'orto, lì sarà una debacle, magari li vince Trentino invece. Allora, aspetta, cioè, quarta domanda e penultima. Questa invece è aperta a entrambi, non c'è chi va più veloce dell'altro, ma chi dà il consiglio migliore secondo me. Che consiglio date a chi vuole cominciare a gestire un orto per l'autosostentamento? Uno consiglio, uno. Dite, parlate, discutetene. Carota, trovarsi l'acqua, prima roba. Ti sento male. Credo di trovarsi l'acqua. Ah, ok, bella, mi piace. E Zucca? In montagna, meglio andare in montagna. Ah, è difficilissimo. Una risposta da Trentino. È che tu non li vedi, non sai se si sono invertiti in realtà, No, infatti mi sto anche parlando italiano, guarda. Fanno bene in realtà. Insomma, Greba, Nadama, secondo voi, Pamela? Qual è la risposta? 1-1 ma forse, secondo me sì. Andiamo sulla parità. Praticamente sì. Pari merito. Cioè, devo dire la verità, in realtà Camicia non ti stiamo ascoltando noi, capito? Ti stiamo proprio lasciando fare. Hanno iniziato il 3-7 adesso, hanno tirato fuori le brioche. È così dalla puntata 1, non vero? Ti preoccupare, Crevana, ci sono abituato. Tutta la gloria a Minima Ruralia. Oh, comunque 3-2 per Zucca per ora, Quindi se la giocano sulla tua ultima domanda. È l'ultima domanda che è basata su una serie di detti. Qua ci voleva... colui che conta davvero, cioè che conta Dino, ma peccato non è più connesso, l'ho sentito prima, ma lui ci vorrebbe in questo momento, ma ve le ricerco in mezzo a tutti questi fogli che ho qua, insomma, migliaia di fogli, scusate. Allora, dico dei proverbi e voi me li completate, vediamo se li sapete. Ma proverbi toscani? No. Cioè, no, come, no, come direste voi, sono a sega io. Vabbè. Esatto, sono a sega io su Zuhi. No, sono proprio proverbi... detti popolari. Proverbi, sì, detti popolari, ma in realtà secondo me sono stati inventati da questo... da culturaesvago.com. Ma come... vedo che continui imperterrito nei tuoi siti di cultura, ecco. Certo, non cambia niente proprio. Dai tuoi 19 anni non è cambiato niente. Ma assolutamente niente. Mentre aspettiamo che ritorni la linea, perché qui probabilmente c'è un altro blackout a Madrid, perché no, non esiste più connessione. Ricordo però che a proposito di In Camiscia, noi si suonerà, perché non l'ha detto nessuno, ma io faccio appunto, faccio parte del gruppo In Camiscia, e suoneremo al Mosto di Firenze, questo volevo dirlo. Incredibile. Perché sì, perché è la data del secolo. Allora, vediamo, perché ce n'ho tanti. Vediamo queste. Ad aprile fiorisce anche un... Barile. Niente, non lo sapete. Un barile. Un manico di barile. Già, è vero. Un manico di barile. Ma questa non l'avevo mai sentita nemmeno io. Non me la ricordavo. Sì. Ci ho provato metterli in fila. Non viene su un cazzo lo stesso. Però, vabbè. No. Ed è verissimo, se lo lasci lì nell'acqua, l'ho visto personalmente fiorire, fare i germoglini. Sempre lì si trova. Allora, ai più tristi porci vanno le migliori perle, non lo so. Quasi, pere. Cazzo, ai più tristi porci, se Grebana, dai, tu lo sai. Cazzo, questa non la sapevo, me la segno però, Ai più tristi porci vanno le migliori pere. Ma quando mai le pere più sfigate se le mangia tutta lei, figurati se le dai ai maiali. Infatti, ci fa la farmellata, qualcosa, ma ora cambierà mood, vedrai, dopo questo detto. Vedremo. Questa invece è un po', insomma, c'è chi potrebbe non essere d'accordo. Questa è evidente degli anni 60, è spennato questo detto, gli anni del boom, eccetera. Chi pianta le fave senza concime le raccoglie azzurre. No. Bella, la capisco, molto bella. Le raccoglie senza baccello. Ah. Pensa a te. La fava mica ci vuole il concime. Eccoci amici. Te l'ho detto che qua parte la risposta. È da anni 60, dai, da rivoluzione verde, va bene. Se metti il concime alle fave sono piene d'affidi poi. Cioè, non si smette mai di imparare, amici. Ma uno può studiare, fare l'università studiando i detti, dai, non c'è bisogno di... Sì, anche se non... la scuola della terra. Allora, cielo rosso e turchino aiuta... Il contadino. Eccolo, è qui. Bravo. Un punto. La remontata sul bravo. Finale. Monotematico, ma bravo. Ah, questo invece era più per erboristi, erboriste. Di fortuna resti intriso, chi si adorna di... Elicriso. Sì, ed è un 1-1, Vai, acceleriamo. Dove non va acqua, ci vuole la... Vanga, no. La zappa. No, quasi. Zappa, bravo. Ed ecco Zucca un altro punto. Fave in fiore, acqua... Qualche fave in fiore, acqua nel cuore. Acqua, sì, infatti, meglio no. Che non ci sia l'acqua. Acqua a tutte l'ore. Acqua a tutte l'ore. Dicono il contrario. Acqua a tutte l'ore. Infatti. Basta, direi l'ultimo. Vai. Sentiamo. Questo giusto per dare il tocco gender fluido, sessista alla puntata, come sempre. Donne e popone, beato chi. Occhio. Qua è pericolosissima, è pericolosissima. È scivolosa, però è molto bella. Cioè, però non so come da dove sia nata, ma donna e popone, beato chi se ne oppone. Cioè, questa proprio non facciamo cancel culture qui a Wombat Radio, non facciamo cancel culture. Sono venute le cose peggio, meglio che sto zitto. Va bene. No, ma ce ne sarebbero molto di peggio da quel punto di vista lì, ma non leggerò. Va bene. Ma senti una cosa, Camicia, io ho voluto intromettermi nel tuo agriquizzo, quindi ho anch'io due domande per loro, posso? Oi, queste sicuramente cioè, poi io non ho fatto delle domande, ho preso due spezzoni di canzoni che vi farò ascoltare, voi dovete indovinare che canzone è. Siete pronti? Da quando sei partita io non ho più paura. Riesco a ridere pure quando mangio la verdura. Che Questi sono pezzi proprio, capito? Classici della musica. Va della musica del Valdarno. Niente, è un po'. No. Sono i Pinguini Tattici Nucleari. Voi siete dei boomer. Sì, ma io... Vabbè, proviamo la seconda. Che io dopo gli anni 90 non conosco. Dovete musica. Conoscere la seconda, proviamo. A Beethoven. Vabbè, battiato, dai. Isolo. Insalata, a Vivaldi, l'uva passa che mi dà più calorie. Cerco il centro di gravità. Bandiera bianca. E indovina, se non last minute, zucca. Sì, ma io con Samarcanda proprio. Va bene, io direi che quindi la nostra rubrica Agriquiz è giunta al termine. Con quale vincitore? Scusa, ora facciamo il conteggio. La nostra redazione sta facendo il conteggio, ma zucca! Zucca la grande. Comunque siamo un po' patriottici. Ma noi patatari siamo accaldati, abbiamo tutte le foglie flosce. Ma senti una cosa, Camiscia, prima di salutarti ti devo far sentire un'ultima piccola cosa, una dedica, un po' un c'è posta per te. Wow, azione. Ma senti, faremo uno spezzone c'è posta per te, visto che in trasmissione avremo dal vivo il nostro buon vecchio Camiscia, cioè dal vivo in realtà, sì, l'avremo in collegamento telefonico da una delle sue posso lanciare un messaggio. Esatto, puoi lanciare un messaggio un po' alla c'è posta per te, cosa da dire a questo Camiscia di oggi? Che nonostante l'affetto sia invariato, la poltrona l'ha cambiato per sempre. Da quando sei seduto su quella poltrona che rivendicava, così era il 2019, una roba del genere. È cambiato. Adesso è un materialista convinto, vive in una metropoli, lo immagino così. Sì, Città del Messico, no? Dov'è che sta? Sì, non lo so. Città del Messico, Greve in Chianti, non mi ricordo. Amore. Hai sentito la dedica che ti lascia, che ti lascia il nostro mulo? Ma già che te invece ti abbiamo qui in diretta, vuoi dire te qualcosa a mulo e starà sicuramente ascoltando la puntata? Sì, che non vedo l'ora di cavalcarlo di nuovo. Va bene, Camiscia, grazie mille. È sempre stato un rapporto così. Grazie a voi. Non ti chiameremo mai più, lo sai, vero? No. Come no, scusami, l'ultima puntata che ho fatto era forse la 54, siamo alla 167. 7, sì. Quindi vuol dire che tra altre 115 puntate mi dovete chiamare. Ma voi avevate un ritmo molto più fitto, eh? Vabbè, sarà tra dieci anni che parlerò del mio attico a Brooklyn. No, speriamo una volta di averti qua con noi dal vivo, in carne ed ossa. Ti vogliamo toccare, Camiscia. Promesso. Esatto, porta la poltrona. Facendo una promessa davanti a milioni di persone. Porto la poltrona portatile e via. Dai, Camiscia, allora ti salutiamo. Grazie mille. Ciao, bellezze, viva Wombat, viva tutte. Ciao. Bene. Ciao, grazie. Ciao a voi, grazie a voi. Ciao, Dama, ciao, Grepa, ciao, Pomela. dopo l'amato AgriQuiz non poteva mancare, come avete riconosciuto dalla sigla, Voci dalla Comunità. Quindi intervisteremo il nostro orticoltore ormai dal nome Zucca e lo farà, come sempre dai secoli dei secoli, la nostra dama. Quindi lascio la parola a lei e mi chedo per sempre. Eccoci, rieccoci qua, un sacco che non faccio Voci dalla Comunità e quindi vediamo cosa viene fuori. La primissima domanda... Che voce della comunità devi sapere, dottor Zucca, che insomma, entriamo un po' nel profondo di chi sei, cosa fai, dove lo fai, perché lo fai. Quindi la primissima domanda è, ma perché Zucca? Che cosa ti ispira la zucca? La zucca come ortaggio? Non so, tu hai scelto Zucca come nome di battaglia prima per la AgriQuiz. Sì, ho pensato quest'anno di concentrarmi sulla zucca. Come ortaggio. Perché? Perché è un paio d'anni che non mi vengano. Oh, e secondo te perché non ti vengano? Devo trovare il posto giusto. Ho cambiato posto, ormai da 3 anni siamo in un nuovo posto. Prima mi venivano benissimo, ora abbiamo cambiato posto e non trovo il campo giusto dove farle. Quindi speriamo che questa incursione in radio ti porti tanta tanta fortuna e che il tuo campo sia ricco di zucche che ci porterà al mercato contadino in Piazza Tassi. Grazie, grazie. Quindi, dove sei? Dove ti collochi? Noi ora stiamo sul Monte Giovi, dal versante di Colognole, che è il versante della Val di Sieve, le porte del Mugello, all'inizio del Mugello. Quindi raccontaci un po', perché parli di noi. Noi cosa vuol dire? Siamo un gruppo di amici. Io e mio fratello abbiamo preso questo podere 4 anni fa e si sono uniti ad altri amici e viviamo tutti lì e coltiviamo la terra. Ed è sempre stato il tuo sogno da bambino? Cioè, cos'è che ti ha portato a prendere un podere e decidere ora vivo di terra? A 17 anni sono andato a fare woofing nel Chianti e ho pensato che questa è la vita che voglio fare, quindi da allora ho fatto più o meno sempre questo. Sempre questo, e nello specifico di che cosa ti occupi? Io nell'orto, sto nell'orto, sì. Mio fratello sta con le capre e c'è Emilio che sta nel bosco. Nel bosco che cosa avete? Nel bosco marroni, marroneta e legna, tanta tanta legna, sì. E chi vuole conoscervi, dove vi trova? Sopra Colognole. No, ma anche fisicamente tipo a Firenze. Dove? Il mercato contadino in Piazza Tasso il venerdì pomeriggio. Oh, e diciamolo ogni tanto. Ricordiamo, l'abbiamo fatto per puntate e puntate, che esiste un mercato contadino in Piazza Tasso tutti i venerdì pomeriggio. E da quanto fate parte di questo mercato? Un paio d'anni? 2 anni e mezzo, più o meno, sì. Cos'è che vi ha spinto a scendere in città? La quantità di prodotti che avevamo e la voglia di far rete con altra gente che fa più o meno la stessa cosa che facciamo noi. E quindi quanto prodotto avete? Ogni anno un po' di più. Sì. Ma fate altri mercati oltre a Piazza Tasso? Facciamo durante la stagione dei marroni, facciamo anche la fierucola, ma se no principalmente in Piazza Tasso, sì. La zucca è l'ortaggio tuo di quest'anno, ma il tuo ortaggio preferito, se ne hai uno? Da coltivare o da mangiare? Entrambi. Da coltivare? Da coltivare la cipolla. E da mangiare? Da mangiare il pomodoro. Il pomodoro. Sì. E se dovessi consigliare qualcosa a qualcuno che vuole intraprendere questa tua stessa carriera, cosa gli consiglieresti? Datti a Lippica. Vai in montagna. Vai in montagna, allora apriremo di nuovo la rubrica. Quanto è bello andare a vivere in montagna, ma... È vero, sarà interpellato nella prossima puntata della rubrica. Beh, bello vivere in montagna, ma... Da quando, insomma, sei contadino, perché insomma di ortaggi e orto ti occupi, la tua più grande soddisfazione, un momento epico proprio che ti ricordi? Aver tirato fuori delle carote dritte. E quando è successo? Dopo quanti tentativi di carote? 3-4 tentativi, sì. L'anno scorso. Ma le vostre carote quanto grandi vengono? Una quindicina di centimetri massimo. Vabbè, insomma, è un buon successo, sei soddisfatto? Sì, non ancora del tutto, ma sì, dai. E il momento più difficile che è passato da quando sei al podere? Le piogge di quest'anno. Sì, le piogge, frenata, la strada, insomma, disagio vero. E quando frana una strada a un contadino, cosa succede? Chiami l'escavatorista. Sì. E lui risolve la vita. Sì, qualche Tutto. migliaio d'euro risolve la storia, sì. Ma l'avete aiutato o fa tutto l'escavatorista? No, si stava a guardare, sì. Era simpatico Sì, l'escavatorista. molto, molto. Oh, Sì. questo è importante, questo è importante. Un consiglio, dai, che vuoi dare magari ai tuoi colleghi, cioè, no, anzi, un buon auspicio a quelli che vivono con te. Cosa gli vuoi dire? Un saluto a casa. Sono a casa. Annaffia la serra. Bastardo, invece di stare ad ascoltare la radio, vai a lavorare. Beh, uno può ascoltare Radio Contado come fanno i miliardi di ascoltatori e di ascoltatrici che ci seguono mentre lavorano. Noi È dovremmo vero, io lo faccio essere sempre. il sollazzo. E per te, che cos'è la comunità di resistenza contadina Jérôme Laronze di cui fai parte? Ma è una bella rete in cui... Avvicinati al microfono, Ah! perché qua ci stanno ascoltando È una tutti. bella rete in cui far parte e spero di poter portare il mio contributo nel campo, diciamo, nel mutuo aiuto, un sistema di aiutarsi a vicenda nella praticità, nel campo, sì. Va bene, io, conduttrice e conduttrice, Sì, sono direi che lo abbiamo soddisfatta. importunato abbastanza per oggi, ma torneremo Torneremo, ti con la richiameremo, montagna. Zucca, sappilo. Va bene. Soprattutto quando vogliamo che tu torni qua in radio a dirci a settembre, no, da Sì. che? A settembre a dirci come sono venute le tue zucche. Dai, verrò. Allora fisseremo questa cosa. Bene, quindi grazie mille. La canzone che avevi scelto l'abbiamo mandata prima della tua Sì. intervista e adesso però dobbiamo rifare un tuffo nel presente, ma nel futuro, con la nostra Pamela, che oltre a fare una stupenda regia oggi, è difficilissimo, con 8.000 fuori onda, spottini, spottetti, ha pure fatto Cinemela. E quindi adesso torniamo un attimo al presente e vi ascoltate il Cinemela di oggi. A tra poco. Radio Contado e Radio Wombat, il movimento che per la sua stessa esistenza e resistenza sbugiarda la narrazione del Made in Italy. Sovranità alimentare, GC, GC, genuina e clandestina, GC, GC, rivolta contadina contro la Monsanto e la Carrefour, milioni di col diretto di Slow Food, GC, GC, sovranità alimentare, GC. GC, genuina e clandestina, GC, GC, rivolta contadina, contro la montante la cattura, migliori col diretto di slogan, GC, GC. Cinemela, la rubrica cinematografica di Radio Contado. A tutto a Cinemela, puntata numero 9. Ritenuto un capolavoro di interpretazione dell'attore, famosissimo attore degli anni 90, Hugh Grant, vi segnalo questo film che si chiama Heretic. Ve lo segnalo perché è una, secondo me, interessante dimostrazione di quante possono essere le forme oggi che gli attori trovano per continuare a dirsi tali nel cinema. Quindi, questo Heretic, questo film del 2024, ci propone un Hugh Grant tipo serial killer. È un film horror, quindi per chi è amante del genere. Potrebbe essere anche così, un film interessante. Lui intrappola queste due ragazzine che vanno in giro per le case a proporre la lettura del Vangelo, sono mormone, testimoni di Geova, insomma, comunque queste figure, ecco, che vanno in giro ad evangelizzare le persone, beccano Hugh Grant e non entrano in una bellissima storia. E quindi è un film appunto di questo regista che si chiama Scott Beck, che è abbastanza capace, insomma, di creare comunque un clima abbastanza inquietante, con una anche escalation. Dopodiché, insomma, per chi non ha mai amato Hugh Grant, può anche evitare di vederlo. Ecco, se invece avete amato questo attore, in anni non sospetti, in cui lui faceva più o meno sempre delle commedie rosa, penso che così vi chiederete come mai è arrivato a cotanta prestazione. Un giallo invece con un'ottima escalation è Sleeping Dogs, un film sempre del 2024 di Roy Freeman, che è un thriller, che è la storia di un ex agente della polizia malato di Alzheimer, che quindi deve in qualche modo rientra in una sua indagine, diciamo un'indagine in cui lui faceva appunto il detective. Ci rientra perché appunto continua ad avere dei segnali che questo caso non è chiuso, e fino a che lui in qualche modo lo conclude e scopre chi è l'omicida. È con Russell Crowe, un altro attore che abbiamo conosciuto con tutt'altre sembianze, abbastanza trasformato dal tempo e anche penso dal cibo, o comunque da qualcos'altro. Sta di fatto che comunque è sempre un ottimo attore, e se si ha la capacità di vedere come il tempo avanza nelle persone, perché è un film abbastanza tosto, ecco, Russell Crowe è abbastanza trasformato, però è sempre molto bravo, e questa cosa che appunto all'inizio, fra le sembianze che ha e fra il fatto che è malato di Alzheimer, sono due aspetti non molto facili, ecco, del film. Poi in realtà entrambi trovano la loro collocazione, e comunque questo sì, lo ritengo un buon film, un film ben riuscito con Russell Crowe. Vi segnalo inoltre La parte degli angeli, che si trova su Rai Play. Non so se ve l'ho già consigliato, ma comunque ve lo riconsiglio, perché è un film di Ken Loach alla Ken Loach, ma con lieto fine, e quindi anche questo è una rarità. E quindi comunque nella tragedia delle situazioni socialmente difficili, c'è l'armonia dell'amicizia, l'ironia anche del furto a fin di bene e il romanticismo di Ken Loach. Quindi La parte degli angeli, che trovate su Rai Play, vi consiglio di vederlo sempre. L'ultimo film che vi consiglio per questa puntata di Cinemela si chiama The Banishment. È un film datato del 2006, e però è un film molto interessante. Ha vinto tra l'altro la Palma d'Oro per il miglior attore nel 2007, e è di un regista russo che si chiama Zviagintsev. È un film molto estetico. È la storia, diciamo, di una tragedia familiare in cui lui, che è un gangster, ritiene di scoprire che la moglie aspetta un figlio da un'altra persona, e quindi questo innesca una tragedia e uno sfascio di questo nucleo familiare. Ma quello che è pazzesco è il clima, comunque questa drammaticità vissuta nella campagna russa, che è stupenda, dei colori, una fotografia, delle ambientazioni meravigliose, una natura stupenda. sublime che non ti aspetti descritta in una terra come quella russa che noi conosciamo, diciamo, poco e male nel cinema solitamente. E quindi questo è proprio un film che per la sua bellezza estetica, tutte le sue citazioni cinematografiche, letterarie, teatrali, la bravura, anche la capacità degli attori di stare in un film così difficile, perché è un film anche molto lento, che appunto lascia molto spazio a questa meraviglia naturale che loro hanno intorno, perché lo scenario in cui vivono questo dramma è uno scenario di campagna. E io ve lo consiglio se lo trovate, The Banishment, perché è veramente un atto estetico, un dono estetico al cinema che ci fa capire tutte le potenziali che questo meraviglioso strumento ha. Per questo ve lo consiglio, appunto, questo film russo del 2006. Su questo ultimo consiglio vi lascio e vi saluto, vi auguro buone visioni, buona primavera, buon sole e buon tutto. Ciao ciao! Contado is the bomb. I mean, absolutely the bomb. It's super cool. We in Los Angeles love it to death. We listen all the time. Let's go. In the club with my homies, trying to get a little VI. We're down on the low key. You should know how it feels. I saw the shorty, she was checking up for me. From the game, she was singing in my ear. Sei tazzo comodi, ma trento che la sloi, sei mezze, non venga più niente, vede in giro sui giornali, vedrai che questo scavo, is beautiful. Se stati svelti e abili, non ve senti colpevoli, le analisi le deboli, per sempre i vostri comodi, sorridete, gli scavi sopra, poveri noi. Sorridete, il piombo torna, solo per noi. Pensare a sta un po' più facile, farsi far delle perizie, prenderle, riguardarle, decidere, e invece... Ho 18 di, guai se non lava dritta. Che alla fine venga fuori, che noi sa cos'è la Slois, volto lei tutta la terra, per il cazzo non sia mai, non sorridete, gli scavi sopra, per quattro schei. Non sorridete, gli scavi sopra, gli è sol per voi. Parla facile, dalla falda beve noi, avrei fatto i vostri calcoli, ma la fisse sulla sloi, te lo potevi guardare, se può cambiare la rotta. Bugatti e gli Aniselli per far su la ferrovia. Se alla fine fo casini, non sta a dir non è colpa mia. Voi sorridete, gli scavi sopra, poveri noi. Voi sorridete, il piombo in veste, ne ciucce noi. Voi sorridete, quei quattro skate, e sol per voi. Ed eccoci tornati in onda con la nostra rassegna eventi, di cui avete sentito l'antica sigla che abbiamo recuperato per voi oggi, e abbiamo intrattenuto il nostro ospite Carota, che ci darà una mano nella rassegna eventi per questo weekend e per il nostro prossimo futuro. Prego Carota. Grazie cara. Allora, semplicemente dico due parole innanzitutto sulla canzoncina che avete ascoltato, Aurora. Trattasi di un fantastico nuovo pezzo dell'Articolo Trentino, gruppo appunto delle montagne, che parla degli scavi in corso a Trento Nord riguardanti il treno ad alta velocità, il tunnel di base del Brennero, così chiamato. Sostanzialmente nel nord di Trento si sta scavando sopra la SLOI carbochimica, o meglio, il tentativo sarebbe quello. Adesso il cantiere è stato sequestrato per disastro ambientale, però l'intento sarebbe quello, la tratta passerebbe da lì, cioè sopra un ex stabilimento di piombo tetratile osceno, e i primi tentativi di scavo hanno tirato fuori i liquami osceni maleodoranti, e insomma speriamo non facciano quest'opera. Ecco, sempre parlando di disastri ambientali e quant'altro, volevo comunicarvi domani 3 maggio ci sarà questo tentativo di azione comunicativa, chiamiamolo così, presso il Podere Stuart, cioè questa azienda agricola sperimentale, biologica e convenzionale, che si è data disponibile per una sperimentazione di pomodoro resistente alla peronospora. Peccato che non si tratti di una sperimentazione qualsiasi, bensì di TEA, così chiamati, cioè i nuovi OGM. Ebbene, con gran capacità di intortare il pubblico, sostanzialmente il CREA, l'ente nazionale, vuole fare questa sperimentazione, per cui ha delegato il Podere Stuart a piantumare delle file di pomodori per una sperimentazione che andrà solo a vantaggio del regime monoculturale in zona di Parma, che insomma tra Mutti e quant'altro è diciamo emblematica come cultura e coltura. E quindi si è pensato di fare un lancio di semi di infestanti, andare a trovare lì davanti l'azienda e verificare lo stato di trapianto e capire se ci sono speranze di dialogo possibile con questi personaggi per farli desistere da continuare la sperimentazione. Non contenti e consapevoli insomma del futuro, assai gramo da un punto di vista delle sperimentazioni in giro per l'Italia per quanto riguarda gli organismi geneticamente modificati, si terrà anche un convegno domenica 25 maggio a Parma, una conferenza che sarà la presentazione poi del corteo che si terrà invece il 14 giugno sempre a Parma. Sarà un corteo in cui speriamo che si sia parecchi, perché sarebbe finalmente un'iniziativa pubblica contro gli OGM a livello nazionale, e in zona poi dove c'è l'EFSA, per chi lo sa, è questo ente insomma di verifica della sicurezza alimentare, e essendo a Parma si piglierebbero due piccioni con una fava oppure due pomodori con un vasetto, non lo so come, che comparazione fare. Comunque questo è quanto. Inoltre vi dico anche dell'appuntamento che si terrà in Mugello. Vi leggo brevemente questa chiamata. Allora, sull'Appennino tra Toscana ed Emilia Romagna è in corso la costruzione di un parco eolico, cioè sono 7 pale alte 170 metri, sul crinale di Montegiogo di Villore, nel comune di Vicchio e di Comano. Se ne occupa GSM AIM SPA, azienda controllata dal comune di Verona. Quello di Villore è un progetto apripista. Subito dopo il respingimento dei ricorsi contro la sua realizzazione, a cascata sono state richieste altre autorizzazioni per nuovi parchi eolici in tutta la regione. L'opera è mastodontica e infatti, nonostante i lavori procedano spediti, per ora l'azienda sta ancora realizzando la strada per raggiungere il crinale, che deve essere abbastanza larga per consentire il passaggio ai trasporti eccezionali, che dovranno trascinare le enormi pale a 1000 metri di altezza su un terreno frastagliato e impervio. Tutto ciò che d'ostacolo viene distrutto, la terra rivoltata, il crinale spianato, le sorgenti d'acqua intubate. Parchi eolici sono presentati come soluzione al problema del cambiamento climatico e vie da percorrere per la transizione energetica. Distruggere il crinale appenninico sembra cosa di poco conto se si parla di salvare il pianeta, ma interventi così invasivi generano disastri che verranno a loro volta risolti con altre emergenze e imposizioni, come dimostrano le recenti alluvioni proprio nei comuni interessati dall'impianto eolico industriale. Se l'annientamento di ogni forma di autonomia individuale e collettiva è la conseguenza più ovvia e allo stesso tempo invisibile di progetti come quello di Montegiogo, il parco eolico è il paradigma di un modo di concepire i territori marginali, pensati come serbatoi da cui estrarre energia e forza lavoro che la rete infrastrutturale porta verso le metropoli. L'opposizione collettiva all'ennesimo progetto insensato può felicemente rovesciarsi in occasione, quella di creare una comunità nella lotta, riscoprire forme di autonomia materiale e spirituale, frammentare questo mondo unico e ostile in tanti mondi finalmente abitabili. È il momento di individuare i punti di frattura tra due modi di pensare e vivere, difenderli e presidiarli. Per farlo serve pensare contro il proprio tempo le sue false evidenze e fare buon uso di ogni crepa nella metropoli come in campagna. Quindi il 2, 3 e il 4 maggio ci saranno dei giorni di esplorazione e dei lavori collettivi a Pian dei Laghi. Sostanzialmente si tratta di sistemare un rifugio, mangiare assieme e visitare quei luoghi, per poi organizzare dal 2 al 5 luglio un campeggio di lotta, che sarà da opposizione a questa ennesima opera disastrosa. Ecco. Bene, veniamo quindi all'appuntamento invece che ci sarà a Grassina, il mercato contadino e artigiano, che sarà a partire dalle 3 e fino alle 20, sarà condito di aperitivo, ma soprattutto avremo l'occasione, l'opportunità di ospitare Geraldina Colotti, che presenta il suo libro Lo spazio dei dinosauri. Geraldina Colotti è una delle principali esperte, diciamo, voci politiche dall'America Latina, nonché direttrice del Le Monde Diplomatique, nella sua versione italiana. È una persona che vive l'America Latina, in particolar modo il Venezuela, da tempo. Un discorso sul Venezuela si era già intrapreso lì a Grassina e l'intenzione è quella di continuarlo con una voce che è assolutamente sensata, ecco, rispetto anche un po' allo sguardo che il nostro mondo contadino dà a queste realtà. Ci saranno i banchi dei 3-4 mercati dell'area di Genuino Clandestino, quindi di Gavinana, della Romola, di Piazza Tasso e di Vaglia, e ci sarà inoltre nutrito da un contributo anche di artigiane ed artigiani locali che fanno con produzioni contigue, ecco, al mondo contadino. Sarà l'occasione quindi sia per acquistare prodotti genuini, sia per avere un momento culturale e politico di estremo interesse, grazie appunto a questa nostra ospite che è Geraldina Colotti. Quindi domani vi aspettiamo a Grassina dalle 3 in poi nel piazzale antistante la Casa del Popolo, e ci troverete là e venite, correte numerosi e numerose. Quindi dividetevi sabato in tre parti in modo da poter partecipare a qualunque iniziativa delle 8 milioni che vi abbiamo appena elencato. Ma prima di lasciare andare il nostro Gianfranco verso lidi più sorridenti, noi l'abbiamo chiamato qui in realtà per parlarci del Genuino che ci sarà tra poco in Trentino per l'appunto. Sì, allora succede che ci sarà il 17-18 maggio, ci saranno i due giorni dell'Intergalattico, l'appuntamento internazionale, mondiale, lunare di Genuino Clandestino, che si terrà a Trento. Allora, è stata scelta Trento innanzitutto perché la Fondazione MAC, che è una fondazione privata e pubblica trentina, ha intenzione di sperimentare nei propri campi un campo sperimentale di meli per l'articolatura, contro l'articolatura, questo fungo che attacca i meli, e contro la peronospora della vite. Quindi si farà un tentativo di presidio, manifestazione in piazza, che sarà una delle prime grandi tentativi di porsi contro l'opera della Fondazione MAC, che da anni porta avanti questa ricerca sfrenata in campo agricolo, con esiti spesso controproducenti, come questo è il caso. È più o meno da un anno che si è creata un'assemblea in Trentino che coinvolge vari gruppi. Vabbè, c'è il collettivo Terra Libertà, c'è l'Emporio di Comunità Edera, ci sono vari contadini, c'è qualche partecipante della foresta di Rovereto, ci sono varie persone, insomma, che vogliono dare il proprio contributo per sviluppare questa lotta e anche per sviluppare una rete fra contadini che è iniziata, quindi sono scesi dalle valli un po' di personaggi finalmente con cui abbiamo avuto maniera di interloquire e siamo riusciti a tirar su una bella ventina di banchetti, sembra, quindi nella speranza che insomma venga a trovarci nel ridentissimo nord qualche italiano dalla bassa Italia. Abbiamo comunque intenzione di lanciare questo presidio dalle 11 di mattina in Piazza Dante, che è la piazza centrale di fronte alla stazione di Trento. Piazza Dante. Scusami, vuoi dire piazza? Piazza. Dai, ma è perché abbiamo la Z un po' simpatica, ma sai che in Valdarno è tutto strano, quindi... Vabbè, comunque detto questo, Piazza Dante ci sarà questo presidio, a cui seguirà un pranzo collettivo e poi il mercato pomeridiano per tutto il giorno in Piazza Dante. Dopodiché ci sarà una pizzata al terreno Notav, che è un posto che abbiamo acquistato collettivamente ormai da più di 10 anni a Trento Sud, nelle vicinanze del cantiere, tra l'altro, del treno ad alta velocità. Ci sarà questa pizzata e poi concertone. Una pazza pizzata. Che speriamo non puzzi. Dopodiché domenica ci sarà tutta una giornata di tavoli, assemblee, confronti dai svariati temi. I già citati purtroppo onnipresenti OGM. Poi ci sarà un tavolo sulla cosiddetta agricoltura 4.0, cioè il nuovo confine dell'agricoltura digitale, intelligente, eccetera, eccetera. Un tavolo sull'agroecologia e poi un tentativo insieme ai contadini locali di continuare la lotta e i mercati autogestiti, i mercati per l'appunto clandestini. Quindi il tentativo di costruire un'assemblea che speriamo vada avanti per l'estate, per gli anni a venire e via nell'infinito e oltre. Ecco, questo è quanto, grazie. Benissimo. Detto questo, io chiederei... Sì, direi che ne vedremo delle belle. Anche qui Camicia ci ha appena detto che lui suonerà invece con i bellissimi in camicia al mosto di Mondeggi, che purtroppo è in contemporanea al GC a Trento, perché dovrebbe essere il 17 maggio. Quindi insomma ne abbiamo di tutti i colori e ribadiamo di nuovo del corteo del 14 giugno, ma probabilmente ne sentirete ancora molto parlare. Prima di lasciare andare Gianfranco però gli vorrei far dire il titolo della canzone che ha scelto lui, perché è per me impronunciabile e tra l'altro è molto sintetica come lui. Che cara che sei. No, ma allora trattasi di pezzo e di gruppo fondamentale degli anni 80 e 90, sai, una sega a te. basta chiamarla interim, è molto semplice. Poi è tedesco e Krucca, sono a sega io. Comunque sono gli Sturzende Neubauten, questo pezzo interim tratto da Tabula Rasa del 92. Grazie mille. Per questo brano, Carota, detto Gianfranco. Esatto. Grazie a lui e a tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione. Muro, Camicia, grazie. Grazie a Daniel. Grazie a Daniel. Sì, è stata veramente una puntata bellissima. Ricca, ricca. Grazie a Pamela che è sempre qua con noi, sempre meglio regia, e soprattutto grazie alla Grebana che ha avuto questa illuminazione geniale. Della nostalgia. La puntata nostalgia. Grazie, mi godrò gli applausi che già sento arrivare dentro alle cuffie. E quindi niente, io direi che vi lasciamo e ci risentirete probabilmente a inizio giugno, ma vedremo, e lanceremo ovviamente il nostro bellissimo corteo contro gli OGM. Ma adesso vi lasceremo con un ultimo piccolo contributo che ci ha lasciato il Mulo e una canzone che rappresenta, penso, appieno questa puntata nostalgia. Alla prossima, godetevi sto caldo. Ciao. Ciao ciao. Quindi siamo qua in questa splendida panorama rurale a registrare incredibilmente con il buon vecchio Mulo risorto dalle ceneri, una minima Ruralia. Come ti senti, Mulo, a rivivere questa... Un sacco vecchio. No, è stato un salto nel passato, grazie. È stato bellissimo. Ma era un passato studio... che avevi voluto dimenticare? O... Che avevo rimosso, semplicemente. Avevo rimosso. Perché tu non ascolti mai Radio Contatto. Io non ho internet. Dopo l'esperienza con Radio Contatto ho scelto di vivere senza internet, quindi Beh, ma non così, la so, ho litigato a morte con Camicia, la dama mi ha dato il 2 di picche, mi sono trasferito a 1200 metri e mi hai tirato giù te per farsi intervista. Niente. Che poi ho preparato in pullman venendo qua, figuriamoci. Un po' frittole la trovo un po' invecchiata. Cioè, minimal. Minimal. Minimal rurale. Bene, non ti abbiamo fatto venire voglia di rifare la radio? Ma avete fatto venire un sacco voglia di rifare la radio e quindi... Tornerò sul monte. Esatto, vado a pensarci. Poi non ho proprio niente da fare perché passo le mie giornate a pensare... A pensare, esatto, non c'è niente da fare. E... Davvero, mi mancate molto, però vi sono nel cuore. Bene, grazie mille, Molo. Ma lo sai che in questa rimodernizzazione abbiamo eliminato completamente i tappetini dalle nostre registrazioni perché io li odio? Sei una merda. Do I feel something special about